America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Quello che ci si chiede è semplificare la pubblica amministrazione, renderla più efficiente, in molti casi anche grande attenzione alla riforma sul mercato del lavoro che semplifica, facilita le relazioni e che in alcuni casi veniva vista come un fattore che potrebbe aumentare anche in modo importante l'insediamento produttivo in Italia di imprese straniere. Il ministro Padoan, lo avete sentito, una sua dichiarazione in cui dice beh, dobbiamo fare questo, questo e quell'altro per attirare investimenti di aziende straniere in Italia. Benissimo, non è il primo, abbiamo avuto altri ministri prima di lui, Vittorio Grilli, Fabrizio Saccomanni, il Presidente del Consiglio, Mario Monti, Enrico Letta, insomma tutti che cercano di attirare gli investimenti stranieri in Italia. E poi che succede? Beh, succede che nel momento in cui questo investimento si verifica, ecco che si scatena una pletora di critiche e di atteggiamenti negativi, pessimisti, da parte dei media italiani, da parte di molti giornali italiani, che reagiscono con preoccupazione, con paura, creando uno stato d'ansia nell'opinione pubblica. Mi riferisco al caso Indesit Whirlpool. Allora, sulla carta, beh, dovrebbe essere una cosa positiva, perché Indesit da sola non andava avanti, rischiava prima o poi di trovarsi in difficoltà crescente. Arriva un'azienda molto più grande, e più grande almeno di 5-6 volte, cioè la Whirlpool, che vende quasi 20 miliardi di dollari di fatturato contro i 3 miliardi di Indesit, e acquista una quota di maggioranza. Una quota di minoranza resta in mano alla famiglia. Da lì polemiche di ogni genere. Per esempio, vi leggo soltanto, non voglio citare giornali, ma sono anche grandi giornali, a parte, devo dire, il Sole 24 Ore, che ha condotto un'analisi molto dettagliata e fattuale di quello che è successo, senza sbavature. Per me questa è una sbavatura, questa che vi vado a citare. I Merloni vendono la loro Indesit agli americani di Whirlpool, un altro pezzo dell'economia e dell'industria italiana che se ne va all'estero, come se le fabbriche dalle Indesit fossero la Costa Concordia che la si monta su dei galleggianti e la si porta da una parte all'altra del mondo. Si confonde in sostanza il capitale con quella che è l'attività produttiva. Un altro: Indesit allunga l'elenco ormai senza fine delle imprese italiane che lasciano il paese. L'annuncio è arrivato, eccetera, eccetera. Ecco, c'è questo atteggiamento tra il preoccupato e il critico. Questa cosa mi sorprende, proprio perché invece dovremmo essere aperti, dovremmo chiederci piuttosto come mai siamo arrivati a situazioni in cui certe aziende italiane non sono riuscite a tenere il passo con la concorrenza globale. La mia risposta è una risposta di chiusura, rigidità, limiti da parte dei sindacati che alla fine hanno chiuso il paese sempre più in se stesso senza aprirgli degli orizzonti internazionali e globali come è successo in altri paesi europei. Ma io vorrei parlare di questo con Giorgio Barba Navaretti, professore alla Statale di Milano di Economia Internazionale, autore di un libro Made in Torino, che analizza invece un'operazione inversa, perché poi ci lamentiamo anche quando ci sono le operazioni inverse, cioè quando la Fiat investe in Chrysler, ecco che l'attacco è immediato, capitali italiani che escono dal nostro paese. Professore, buongiorno. Allora, come reagisce a questa situazione? Buongiorno, buongiorno a voi. Il problema è che effettivamente in un mondo globalizzato il territorio di un paese, si può dire, diventa contendibile, nel senso che un'azienda che opera con un'ottica globale può decidere di produrre in Italia come altrove, ma non c'è alternativa ad aprire i capitali delle nostre aziende e le attività delle nostre aziende al mercato internazionale, nel senso che l'Italia, per stare sui mercati, per riuscire a mantenere un'industria efficiente e competitiva, ha bisogno di capitali esteri, oppure le aziende italiane devono andare all'estero e investire globalmente. Ecco, scusi, perché i media si comportano in questo modo, secondo lei? Ma i media si comportano in questo modo perché molto spesso c'è una visione demagogica del problema dello straniero che viene ad investire in Italia e della paura di perdere le attività produttive italiane. È chiaro che un paese che per molto tempo è stato in recessione, in una fase di grande debolezza, in cui c'è un tasso di disoccupazione molto elevato, queste preoccupazioni vengono amplificate, e devo dire, in questo senso, a volte si vedono delle operazioni che in realtà invece avranno un effetto, delle ricadute positive sul paese, come quella di Whirlpool Indesit, come delle operazioni potenzialmente negative, e si dimentica invece di raccontare quello che è la ricaduta ricaduta possibile e ricaduta positiva sul paese. È probabile che l'Indesit senza la Whirlpool o senza un accordo simile non avrebbe avuto un futuro, perché era un'azienda troppo piccola per riuscire a stare sul mercato globale sulle sue gambe, quindi dobbiamo rallegrarci di quello che è successo. Come mai ci troviamo in questa situazione? Perché Air France, British Airways, Lufthansa, KLM sono delle linee aeree che funzionano e l'Alitalia no? E quindi dovremmo scandalizzarci se vengono gli stranieri? In realtà qua di nuovo tornano a salvarci. Cioè c'è qualche cosa che abbiamo sbagliato tempo fa? C'è questo atteggiamento di chiusura nei confronti degli esteri, di protezionismo, magari un ruolo forte del sindacato che ha creato queste rigidità di cui vogliamo liberarci? La prima cosa da dire è che qualunque paese che opera e che lavora in un contesto globale deve essere aperto agli investimenti esteri. Anche paesi che sono stati molto attivi sul fronte degli investimenti in uscita, dalla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, sono tra i paesi principali che ricevono investimenti esteri, perché l'attività globale dell'impresa è un'attività sia in entrata che in uscita. Cioè non possiamo ragionare con un'ottica sola, no? Non possiamo guardare il problema solo dal punto di vista degli altri che ci comprano, oppure dal nostro punto di vista potenziale di noi che possiamo comprare gli altri. Le economie devono essere aperte con investimenti in entrata e in uscita, e questo è fondamentale. Noi a volte abbiamo pensato di poter difendere l'italianità delle nostre attività, come è successo ad esempio in modo molto erroneo nel caso Alitalia, quando Alitalia doveva essere acquisita da Air France, e facendo questo in realtà molte volte abbiamo indebolito le nostre aziende e perso delle opportunità di internazionalizzarci. Dall'altra parte però dobbiamo anche chiederci come mai noi abbiamo delle aziende che raramente sono in grado di conquistare altre imprese sui mercati internazionali e diventare dei gruppi globali. Ecco, e su questo qual è la risposta? Guardi, c'è una risposta secondo me in parte di sclerosi del capitalismo familiare, del modo in cui vengono governate le aziende in Italia. In Italia ci sono altrettante imprese familiari, a controllo familiare, che nel resto dell'Europa, ma un numero molto più elevato di queste che ad esempio a manager familiari, cioè non si vuole passare a un modello di governance per cui sono i manager esterni, le competenze esterne che gestiscono le imprese. E poi c'è un problema secondo me naturalmente di territorio, di sistema. L'Italia è un paese che, come sappiamo, ha delle lentezze burocratiche drammatiche, ha ancora un sistema di relazioni industriali che non è sufficientemente aperto ai capitali internazionali o non lo è nel modo giusto. C'è un'agenda di riforme che da noi non è ancora stata realizzata. Ecco, scusi, la interrompo. A questo proposito, ho visto l'altro giorno, un paio di giorni fa mi pare, un'intervista uscita su un altro giornale italiano con Renzi, e la domanda è proprio su Indesit. In Italia c'è stata polemica perché Indesit ha venduto a Whirlpool, quindi ecco, la percezione è chiarissima di questa polemica, e la risposta di Renzi è: la considero un'operazione fantastica, ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi, perché non si attraggono gli investimenti e poi si grida al lupo, riscoprendo un'autarchica visione del mondo che pensavamo superata. Abbiamo ancora una visione autarchica? Devo dire, queste parole di Renzi mi rassicurano, perché va diretto al cuore del problema. Io direi che si continua a fare confusione tra quella che è la nazionalità della proprietà delle aziende e la nazionalità delle attività industriali e dei servizi delle aziende stesse. Noi potremmo avere un sistema produttivo industriale di servizi totalmente a proprietà straniera ed essere comunque un paese ricco ed efficiente con un prodotto interno lordo che cresce. Quindi il problema non è il nodo, non è tanto la proprietà delle aziende, quanto la capacità di tenere e di rafforzare le attività produttive che sono sul nostro territorio. E perché questo accada è necessario ed importante che il governo vada avanti sulla sua agenda di riforme. Ricordiamoci che il nostro è un paese di riforme che non sono ancora state fatte, che non sono mai state fatte finora. Sappiamo tutti che cosa bisogna fare, andiamo avanti rapidamente. Questo sicuramente servirà a far funzionare meglio i capitali stranieri in Italia, ossia attrarne di più e fare in modo che questi vogliano e scelgano di tenere attività economiche produttive nel nostro paese, anche se il controllo passa all'estero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato, diciamo, di un'accoglienza non troppo favorevole a certi investimenti stranieri, e dunque mi sembra molto adeguata una canzone messaggio di Jon Bon Jovi, Welcome to Wherever You Are, benvenuto dovunque tu sia. York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.